Lezione 2. Che cosa prendi? Senti, io sono stanca. Ci sediamo in quel bar? Sì, buona idea perché sono stanca anch'io e poi ho sete, ho veramente sete. Senti, ci sediamo dentro o fuori? Beh, ma fuori, no? È una giornata così bella. Dai. Sì, però al sole. Sì, sì, al sole naturalmente. Bene, adesso quando arriva il cameriere. Oh, ecco il cameriere. Buongiorno, mi dicano. Senta, io vorrei una birra. Ecco. In bottiglia o alla spina? Alla spina. Alla spina va bene, piccola, media o grande? Ma media. Benissimo. Media. E benissimo. Poi sente, poi vorrei anche mangiare qualcosa. Che cosa avete da mangiare? Ma abbiamo medaglioni, tramezzini, pizzette, toast. Senta, i tramezzini come sono? Che cosa c'è? Che cosa c'è dentro? Sì. Ah, ci sono delle uova e pomodoro, oppure prosciutto cotto e fontina, mozzarella e carciofini, tonno e pomodoro, mozzarella e alici, mozzarella e funghi. Ah, ecco, benissimo. Allora, un tramezzino mozzarella e funghi, però mi raccomando caldo, va bene? Benissimo, guarda, benissimo. E per lei, signora? Sì, anch'io vorrei mangiare qualcosa, vediamo un po'. Ma io prendo un tramezzino con tonno e pomodori. E da bere? Da bere. Prendi una birra anche tu, no? No, una birra no. E perché, non ti piace la birra? Sì, mi piace, ma adesso non mi va. Vabbè. Avete spremute? Sì, abbiamo spremute di arancia, di pompelmo. Sì, allora una spremuta di arancia, ma senza zucchero, mi raccomando, e con un po' di ghiaccio. Va bene. D'accordo, allora vediamo un po', due tramezzini, una birra media alla spina, alla spina, media, e sì. Una spremuta d'arancia. Sì, mi esatto. Pare, sì, sì. Sì, esatto. Ah, senta, potrebbe portare anche un portacenere? Certo, signora, subito, sì. Allora, ecco i tramezzini. Bene. La birra e l'aranciata a lei, mi pare, sì. Sì, sì. Ecco. Bene. Bene, paghiamo subito allora. Offro io, eh. Oh, grazie. Bene. Allora sono sì. Esattamente 19.250 lire. Bene, ecco a lei. Grazie. Le 250 spicciole? No, tenga pure il resto. Grazie. Bene. Un bene. Po' caro però, eh? Bah, un po' caro, sì, ma in fondo sai, siamo in centro. Comunque, buon appetito. Altrettanto, grazie.